A bordo campo di Dario Ricci. La scherma italiana volta pagina, inizia l'era del dopo. Stefano Cerioni per il nostro fioretto, quel fioretto che è tornato da Londra 2012 carico di onori e di gloria, ma che poi ha visto la partenza del nostro CT forse più vincente verso la Russia per motivi tecnici ma anche e soprattutto direi economici. E allora oggi ospite di Radio 24 a bordo campo chi raccoglie l'eredità tecnica di Stefano Cerioni e si siede idealmente sulla panchina, o meglio a bordo pedana della nuova Italia del Fioretto. Benvenuto Andrea Cipressa. Buonasera, grazie a voi. Allora, Andrea Cipressa, 49 anni, ha al collo intanto una medaglia olimpica che ricordo di aver visto da bambino, perché oro col Fioretto a squadre maschili a Los Angeles 84 con Numa, Borella, proprio Cerioni e Scuri, per 12 anni componente del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Maestri, dal 2008 vicepresidente della Federschema e finora CT ad interim nell'attesa che questo ruolo venisse ufficializzato. Beh, Andrea, una bella responsabilità tornare in pedana dopo il carico d'oro di Londra, no? Sì, sicuramente, è una responsabilità, un impegno, ma anche una sfida stimolante, francamente, perché avere la possibilità di guidare questi ragazzi, questi campioni e campionesse, ovviamente, è un privilegio, un onore, quindi mi sento onorato del fatto che il Consiglio Direttivo all'unità abbia deciso di affidarmi questo incarico. Sono fiducioso perché i ragazzi sono forti e lo tecnico con cui mi accompagnerò in questo quadriennio di primissimo ordine. Ecco, prima di entrare nelle questioni tecniche, c'è stato un passaggio di consegne con lo stesso Cerioni, come vi siete salutati, cosa vi siete detti? Beh, allora con Stefano, tra l'altro, devo dire che questo messaggio, un messaggio di congratulazioni e di in bocca al lupo. Con Stefano ci siamo salutati in maniera anche affettuosa all'ultimo consiglio direttivo, nel senso che siamo stati compagni di squadra ai mondiali, olimpiadi, abbiamo vinto grandi cose assieme, abbiamo condiviso insieme esperienze meravigliose che non passano adesso così in secondo piano. Io ho detto ai ragazzi e alle ragazze al collegiale della settimana scorsa che abbiamo fatto assieme a Norcia, che ora Stefano Cerioni non è il nemico da battere. Stefano Cerioni è il responsabile della squadra russa e la squadra russa è da battere. Stefano rimarrà sempre per me un amico e per questi ragazzi, queste ragazze che in questo momento sono forse un po' così, un po' risentiti, si sono sentiti un po' abbandonati da Stefano. Dico, Stefano ha fatto una scelta professionale, ha fatto una scelta professionale e da professionista qual è, da grande commissario tecnico qual è stato, e queste scelte vanno rispettate. Ecco, però concedici la battuta, Andrea, proprio la Russia si è andata a scegliere, la nostra avversaria storica, che è una delle poche che ogni tanto qualche stoccata ce la rifila. Ovviamente Stefano ha fatto le sue valutazioni, che sono state giustamente valutazioni economiche, e in questo purtroppo la Russia non ha rivali in questo momento. La Russia è in grado di mettere in campo una potenza di fuoco economica che nessuna nazione e noi in questo periodo storico, meno di molte altre, possiamo sostenere. Ecco, io credo che al di là di tutto l'offerta economica ha fatto la differenza nella scelta di Stefano, ed è rispettare, perché caspita, l'offerta russa era un'offerta alla quale noi non potevamo assolutamente minimamente avvicinarci, non potevamo per quelle che sono le nostre risorse, non potevamo per quello che è il momento storico, non potevamo perché francamente, tra l'altro, anche nel consiglio direttivo abbiamo approvato nel corso del precedente consiglio direttivo un aumento di 5 euro come tassa di iscrizione a ogni gara per ogni ragazzo, dovuta purtroppo ai tagli che sono stati inevitabili, no? In coscienza non si può chiedere alla base un sacrificio e poi al vertice elargire, pur meritandosele, attenzione, perché se non si meritava non molto di più, però noi dobbiamo fare i conti da buoni, tra virgolette, padri di famiglia con quella che è una corretta amministrazione della Federazione Italiana Scherma. Entriamo subito in pedana perché sono tanti i temi, a partire proprio dall'eredità che lascia Cerioni. Abbiamo visto che Elisa Di Francisca, trionfatrice di Londra 2012, che era l'allieva prediletta di Stefano, ha scelto ora la Trillini, Giovanna Trillini, come sua nuova maestra. Ecco, accoppiata tutta al femminile, come la valuti e come pensate di poter lavorare insieme? Beh, Allora, diciamo che Elisa è quella che forse più ha sofferto la partenza di Stefano, era il suo commissario tecnico, ma era soprattutto il maestro che l'aveva messa in pedano, l'aveva portata a vincere la medaglia olimpica. Aveva una necessità di trovare un nuovo maestro, un nuovo allenatore, ha invitato Giovanna. Giovanna è stata una grande campionessa, una grandissima donna, una grandissima atleta. Bisognerà vedere cosa saprà esprimere come maestra. È quasi una scommessa che ha voluto fare Elisa e credo ha voluto fare anche Giovanna, perché si è presa un bel impegno per allenare Elisa. Io credo che però assieme possano fare bene, possano fare grandi cose. Giovanna è una persona che io inserirò nel mio staff inizialmente per 20, perché soprattutto femminile, perché penso che sia un bel punto di riferimento per le nostre ragazze under 17 e under 20, essere accompagnate ed essere seguite alle gare internazionali di Giovanna Trillini. Io con Giovanna a bordo pedana, con le ragazze, mi sento, mi passi il termine, una botta di ferro, so a chi le affido, ecco, perché questa è anche una responsabilità mia di CT, ma nostra di federazione. Punta decisamente a Rio anche Valentina Vezzali, è in attesa del secondo figlio, candidata, sappiamo, anche alle politiche, agenda un po' piena, sappiamo che super Valentina non ha confini, ma è un futuro che, se fossi io il CT, sarei un po' preoccupato a dover gestire. Ma in effetti un po' preoccupato lo sono, sono preoccupato, ma sono soprattutto preoccupato che Valentina possa avere lei qualche delusione nel ritornare in pedana. Da parte mia, anche perché un monumento come lei difficilmente accetta la sconfitta, da parte mia posso dire che farò tutto il possibile per mettere Valentina nelle migliori condizioni per giocarsi le sue chance al meglio per la prossima qualificazione olimpica di Rio. Io credo che Valentina, anche in questa scelta che ha fatto di entrare in politica, l'abbia fatta valutando tutto quanto. Valentina è una macchina, chi la conosce bene come me da tanti anni conosce le potenzialità di Valentina. Il caso Arianna Enrigo invece, abbiamo visto, si è sfogata su Facebook contro il suo ex maestro Giovanni Bortolaso, che anche lui ha scelto la Russia come Cerioni, insomma l'aeroporto qua da Fiumicino a Malpensa, voli in continuazione in partenza, penso la capitale Mosca. Da questo punto di vista però ha anche sfoderato quel carattere che l'ha portata a un passo dall'oro olimpico. Come lavorare per arrivare su quel gradino più alto da CT? Certamente, mi ha detto che Arianna forse, ecco, mentre Stefano era stato chiaro dall'inizio, e cioè ha detto: signori, questa è l'offerta che mi fa la Russia, capisco le vostre difficoltà, capisco, abbiate fatto uno sforzo, però accetto l'offerta, ed è stato chiaro. Mentre con Giovanni invece, ecco qui dove arriva forse il rammarico e un po' il risentimento di Arianna, Giovanni Bortolaso fino all'ultimo è stato indeciso, vado o non vado, noi come federazione abbiamo fatto sforzi economici per cercare di trattenerlo, li abbiamo fatti pesanti, alla fine all'ultimo momento decide di andarsene. Quindi questa è stata forse la poca chiarezza da parte di Stefano e la maggior rivendicazione che fa Arianna nei suoi confronti. Credo che Arianna è una campionessa, è un animale da pedana, è una fuoriclasse, si tratterà adesso di trovare il maestro giusto per lei e questo lo andremo a decidere assieme. I maestri e i campioni non possono essere imposti, devono essere scelti da loro. Lo decideremo assieme, io lo dico ai ragazzi che personalmente sono a loro disposizione, però ovviamente nei collegiali e nei momenti di gare non è che posso seguirli nelle loro sedi a dare lezioni a loro e allenare loro. Ma io credo che alla fine la grande potenza di fuoco che abbiamo noi come scherma italiana nei nostri tecnici ci aiuterà a fare la scelta giusta. C'è una cosa che la federazione italiana ha, è grandi tecnici, grandi maestri scherma. Intanto dal fondo pedana CT si intravede la figura di un'altra grande campionessa che sta tornando, Margherita Granbassi. Anche lei ha nel cuore questa sfida, questo sogno olimpico, dopo tante tribolazioni, tanti infortuni. Come la seguirete? Allora, diciamo che Margherita è un caso un po' diverso, no? È un'atleta che è stata fortissima, lo dico io ma lo dicono i risultati che ha fatto. È molto che è distante dalle pedane, però io personalmente non l'ho più vista da Pechino, ha avuto grossi infortuni, ha avuto intervalli per dedicarsi a quella che lei ama, l'attività giornalistica, poi è stata infortunata, ha fatto interventi. Ripeto, bisognerà vederla in pedana, bisognerà capire dai medici prima cosa se avrà l'idoneità per tornare in pedana, questo ve lo dovranno dire la commissione medica, il momento stesso che otterrà l'idoneità io credo che dovrà fare anche lei un percorso, dovrà dimostrare qualcosina, fare le prime gare di qualificazione italiana, fare gli open italiani, gli assoluti, dimostrarmi, non serve che vinca, non è che gli voglio dare una serie di prestazioni, devo capire che c'è ancora, quando se capirò questo, insomma, lei le porte per Margherita della Nazionale sono aperte, mi sembra che anche lei un'occasione, un'opportunità se la meriti. Beh, coach, talmente forti le nostre donne donne che quasi abbiamo dimenticato in questa chiacchierata agli uomini, ma direi che Baldini, Aspromonte, Avola e Cassarano bisogno di ben poche presentazioni e forse solamente della giusta convinzione per diventare piano piano infallibili, perché ci ha bruciato solo quella gara individuale di Londra 2012 che poi hanno saputo riscattare alla grande nella gara a squadre, direi. Vero, la situazione del maschile è un po' più semplice, sinceramente. I ragazzi ci sono, li ho visti adesso i collegiali, sono carichi, hanno voglia di dimostrare la loro forza, li vedo bene, sono giovani, sono motivati, sono forti. Devo dire che gestire gli uomini, forse, mi perdoni, è anche un po' più facile che gestire le donne, al di là del momento un po' particolare che sta attraversando il circuito femminile. I ragazzi sono forti, una cosa bella è che dietro, sia al maschile che al femminile, abbiamo giovani che spingono con grosse potenzialità e grandi talenti. Anche questo, se vogliamo, è un po' il segreto della nostra federazione, formazione magistrale e attenzione particolare ai giovani alle spalle dei più adulti, insomma. E allora Andrea Cipressa, in bocca al lupo per questo nuovo incarico, per questo nuovo compito, nuovo CT del fioretto italiano maschile e femminile, e grazie per essere stato ospite oggi qui a Bordo Campo e a Radio 24. Grazie del bocca al lupo, crepi il lupo, grazie dell'invito, grazie mille, cioè, buona serata. A presto, buona serata, a presto, grazie. A Bordo Campo. Torniamo in alta quota oggi a Bordo Campo perché poche settimane fa, era il 30 dicembre, avevamo lasciato il nostro amico scalatore Daniele Nardi in partenza dall'Italia verso il Nanga Parbat, 8125 metri, la montagna mangia uomini che Daniele cercherà di scalare per la prima volta durante la stagione invernale. E allora lo raggiungiamo subito sulle pendici del Nanga Parbat, o meglio lì vicino. Ben trovato Daniele, dove sei? Ciao, ben trovati anche a voi. Noi in questo momento siamo all'interno di una tendina piccolissima e siamo io, Elizabeth Revol e Ali Mohamed. Siamo in una piccola tenda appollaiati a quasi 5.000 metri. Siamo nella fase di acclimatazione. Nella nostra strategia abbiamo scelto di non andare direttamente al Nanga Parbat, ma di fare l'acclimatazione a una cima satellite che si chiama Ganalo Peak, che è proprio qui vicino, che ci permette di fare un'acclimatazione in questo periodo invernale durissimo in modo un pochettino più agevole. L'acclimatazione chiaramente in questa spedizione è importantissima. Ecco, quindi a che quota ti trovi in questo momento? In questo momento siamo a 5.000 metri quasi, abbiamo in previsione spostarci verso l'alto e cercando di arrivare a 6.000 metri, quindi toccare i 6.000 metri su questa montagna laterale al Nanga Parbat. Come potete sentire, la mia voce chiaramente è un po' affaticata perché oggi abbiamo dovuto portare su tenda, cibo, da cappelli e quant'altro, insomma, per fare questa prima scalata di acclimatazione. Ecco, io volevo ricordare ai nostri radioascoltatori perché è importante acclimatarsi bene, perché se noi siamo ben acclimatati, cioè se il nostro corpo si adatta all'alta quota, è più capace di fare sforzi, di fare esercizi, quindi di salire verso l'alto, ma anche di autoriscaldarsi. Chiaramente in questo periodo invernale, dove le temperature scendono anche a 30 gradi sotto zero, è fondamentale. Quindi prima di andare verso il Nanga, che è una scalata molto più difficile, vogliamo fare questa prima fase di acclimatazione su quest'altra cima dal nome Ganalo Peak. Ecco, anche il Ganalo Peak però è una cima di tutto rispetto, no? Già fare questa scalata conferisce un certo valore alpinistico all'iniziativa, alla spedizione, no Daniele? Assolutamente sì, a volte io nell'entusiasmo di quello che sto facendo non trasmetto magari a chi ne sa di meno che cosa significa fare il Ganalo Peak, che è di 6.600 metri in inverno. È comunque una montagna di tutto rispetto, cioè significa che questa spedizione probabilmente, ma perché non ho ancora cenni storici rispetto a questa montagna, potrebbe essere anche questa una prima invernale a questa montagna, quindi chissà mai, il nostro bottino potrebbe essere interessante quest'anno. Parlaci un po' dei tuoi compagni di tenda, perché so che hai trovato appunto questa compagna d'avventura transalpina strada facendo, è nato subito un bel affiatamento, no? Ah, bellissimo, bellissimo, guarda, veramente io sono, quando Elizabeth mi ha contattato perché voleva venire al Nanga Parbat, perché era, è anche il suo sogno, sono andato subito in Francia, l'ho conosciuta, e ci siamo trovati subito con un buon feeling, sia per lo stile con quale vogliamo scalare questa montagna, ma proprio per una questione di simpatia, sai, ci sono delle persone che ti sono più simpatiche e altre meno, quindi abbiamo fatto questo bellissimo avvicinamento al campo base in serenità e oggi, pensa che poco fa, ci siamo veramente ammazzati dalle risate per delle battute che escono fuori, perché qui in tenda tutti arrestati, no? C'è una tenda alta veramente 60 centimetri, siamo in tre, cioè che mi è caduto praticamente un cucchiaio di cibo e lei faceva la mamma e mi diceva: sì, Daniele, non fare lo sporcaccione, raccogli quello che hai fatto cadere per terra, quindi c'è veramente un gran morale, il team mi piace, e anche da lì che è la nostra, diciamo, il nostro agente locale vuole scalare il Granano Peak, ma non credo che verrà poi a Nanga Parbat, quindi sono veramente soddisfatto, orgoglioso di questa spedizione, e poi ce la metteremo tutta. Non è qua, c'è il rischio che Elisabeth ti faccia passare anche l'aspirapolvere a quota 6.000, eh? Mi auguro di no, diciamo che io e Alimo Ahmed siamo scoppiati a ridere veramente, perché qui veramente la simpatia e il divertimento si respirano nell'aria, ma questo è bello così, perché siamo venuti per prima cosa per divertirci, per fare il meglio di noi e poi comunque per tentare un'impresa memorabile e storica per l'alpinismo italiano, ma a questo punto dico europeo e anche internazionale. Senti, a proposito di aria, so che nei giorni scorsi una bella folata di vento va creato parecchi problemi, qualche centinaio di metri più in basso. Guarda Dario, ormai noi ci conosciamo da un po', perché ci sentiamo spesso con Radio 24 e con Bordocampo, e ti dico, guarda, ieri, l'altro ieri, per precisione, veramente ho pensato che la nostra spedizione fosse finita, perché una folata di vento incredibile, noi diciamo a 150 km orari, ma penso che fosse anche più forte, di punto in bianco ha abbassato, schiacciato le tende, e la nostra, che è una tenda semisferica, l'ha praticamente presa e l'ha buttata giù verso il ghiacciaio per oltre 100 metri. Fortunatamente tutti i computer, il tavolo, le sedie che erano dentro hanno un po' bloccato questo procedere della tenda verso il ghiacciaio e siamo fortunatamente riusciti a recuperarla. Ma pensa che dentro la tenda, per scaldarci, noi avevamo acceso un fornello ed eravamo usciti 10 minuti per fare colazione. Mi sono lanciato veramente dentro la tenda per spegnere le fiamme e fortunatamente abbiamo perso solo un sacco a pelo, una giacca in piuma e delle altre cosette, ma tutto che l'organizzazione, diciamo, di Mountain Freedom, della mia associazione, aveva previsto come duplicato, e quindi diciamo questo ci ha permesso di recuperare il materiale che chiaramente non è più utilizzabile. Ecco, condizioni di questo inverno particolarmente rigide, vero? Ai piedi del Nanga Parbat è un inverno veramente veramente duro. Sì, stiamo facendo una fatica enorme a sopravvivere a queste temperature, anche per un altro dettaglio che può sembrare un dettaglio ma non lo è. Pensa che al campo base, per cercarlo di proteggere da questi venti micidiali, è dentro una conca, e questa conca però non arriva il sole giornaliero del classico inverno di 8-10 ore, arriva solo 2 ore di sole al campo base, per cui per certi versi noi vogliamo scappare dal campo base, perché le temperature lì raggiungono i 20 gradi sotto zero, ma continui, costanti durante tutta la giornata, peggiorando un po' durante la notte, ma la notte siamo dentro il sacco, ce ne accorgiamo di meno, ma durante il giorno, quando ci vogliamo rilassare un po', il sole veramente fa capolino molto tardi, perché sulla destra abbiamo un colosso che è il Mazeno Peak di 7000 metri e sulla sinistra il Nanga Parbat, quindi immagina in quale sorta di inverno stiamo passando qui, cercando di scaldare le nostre membra. Ti chiedo ancora, come vi alimentate? Cosa si mangia a quelle altitudini, soprattutto per poter costruire un serbatoio di energie che poi inevitabilmente sarà necessario per sfidare la montagna mangia uomini? Allora, io dividerei il fatto in due luoghi, diciamo campo base e poi tutto ciò che è sopra verso l'alta montagna. Al campo base, pensa che l'agenzia Karakorum Magic di Alimo Ahmed ci ha portato un cuoco fantastico che è capace di cucinare la cucina romana e farcela mangiare al campo base, quindi al campo base ci stiamo alimentando veramente molto bene. E poi invece, quando ci spostiamo verso l'alto, chiaramente liofilizzati, barrette energetiche, gel di carboidrati che ci permettono di fare gli sforzi, e poi la cosa buona è che io ho portato del buon prosciutto di Bassiano, hai conosciuto, e del buon parmigiano, che ci permettono, diciamo, di aumentare l'appetizzazione, perché uno non ci pensa, ma il grosso problema in alta quota è proprio l'appetizzazione, cioè che il fatto che la fame con la bassa pressione dell'aria non ti viene, quello è il grosso problema. Avere dei piccoli cibi che ti integrano, magari liofilizzati, di casa Italia, di casa Italia o casa francese, ne abbiamo anche altri francesi, chiaramente ci aiutano ad alimentarci e a tenerci in forma nelle giornate di scalata. Ebbene, allora sarà un bel duello scegliere poi il vino con cui festeggiare questa impresa. Daniele, ti lasciamo anche per preservare le batterie del tuo telefono satellitare. Un'ultima battuta però, perché ti possiamo seguire sul tuo sito internet, oltre che telefonandoti. Assolutamente sì, Dario, sarei contentissimo. Lì sto su www.danielenardi.org. Sto postando quasi giornalmente, diciamo, dei racconti miei, delle emozioni, dei video e delle foto che possono permettere ai nostri, a tutte le persone che amano la montagna, a tutti quelli che vogliono vivere un'avventura attraverso di noi, di poterci seguire ed emozionarsi così come stiamo facendo noi in questo momento. Questa è la cosa bella, diciamo, dell'era del nostro tempo tecnologicamente avanzata, e ci permette di far vivere le emozioni di montagna a chiunque è appassionato e voglia farlo. Certo, è un lavoro a campo base, ma mi rende felice. Faccio un'ultima battuta: per questa spedizione ho scelto Casale del Giglio perché in questo momento ci sono particolarmente legato, e sarà la bottiglia del vino con cui festeggeremo, spero, presto una importante vetta. E allora ti aspettiamo a livello del mare. Intanto fateci spazio nella vostra tendina, noi a tutti gli ascoltatori di A Bordo Campo, che vi siamo davvero vicini. Un abbraccio a Daniele Nardi e ai suoi compagni d'avventura dal Ganalo Peak. Ci andiamo a risentire dalla vetta del Nanga Parbat, Daniele? Assolutamente sì, Dario, grazie a te, a prestissimo. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete risentirci attraverso il nostro sito internet www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento, come di consueto, è per domenica prossima alle 14.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.